hola, hola, hola. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio, non c'è nessuno, cambio, cambio, cambio. Oh, happy day. Ciao Luigi. Buongiorno. E allora, come va? Cosa? Siamo tutto a posto. È meglio così, così va bene. Quando è tutto a posto va bene così. Oggi bellissima giornata, Alice. Io sono appena rientrato, sono andato a fare la terapia e adesso sono a casa. Terapia? Io sistematicamente ogni certo periodo devo andare a fare una terapia, capito? Per il problema che avevo avuto e dunque sono sempre sotto cura fino a 3 anni praticamente. Siamo già al secondo anno, per cui va bene così e andiamo avanti. Piano piano si va avanti, non mollare mai, l'importante è andare sempre avanti e non mollare. Ok, certo. Oggi mi sta arrivando bene, a differenza di ieri che mi sta arrivando male. Ieri mi arrivavo in basso, oggi mi sta arrivando molto meglio. Non mi ero accorto che spolverando stavo uscendo a un fatto. Appunto, adesso sei oltre 9, prima ieri eri 7, anche scarso, adesso stai andando bene, 9 qualcosa, più o meno si può dire 9+2, più o meno. Va bene, anche la radio è forte, non come ieri era bassissima, anche se qualcuno ti sentiva forte, ma io e anche Antonio ti sentivamo basso. Poi vabbè, sono andato a cenare, per cui non abbiamo continuato. Adesso va bene, altro che... Mi sono anche spolverando, siccome non lo conosco il caparecchio, lo stavo spolverando e dopo che ho toccato il fatto, capito? Così va bene, adesso va bene, Santiago 9 qualcosa in anche, per cui va benissimo così. Vabbè. Ma dove l'avete preso? Qui in Sardegna o da fuori l'avete fatto arrivare quella? No, in Sardegna, ho preso in Sardegna. Ho capito. Va bene, dai, andate così. No, già sto facendo bene, la verità. A differenza di ieri, infatti la stava strano. Infatti ieri ho detto, probabilmente bisognerà aprire un po' la LC e anche il power, proprio perché eri troppo basso, perché io mi ricordavo sempre il tuo segnale, quando avevi il 3009 della Superstar, quello era lo stesso ricezionale, e adesso sì, è lo stesso segnale di prima. Sì, vabbè, stavo uscendo, ti ripeto, scoverando, inavvertitamente ho toccato la cosa del fatto, stavo andando a un fatto, capito? Sì, perché quel baracchino ha la potenza regolabile, sì. Va bene così, alla grande, sono contento per te, dai. No, perché insomma sono un po' preoccupato per il semplice motivo che per essere un Galaxy è troppo basso di segnale, è motivo c'era, ed ecco che me l'hai spiegato. Adesso va bene, alla grande. A me già mi senti bene, com'è in ricezione, com'è? Buono? No, va bene, va benissimo, io voglio. Sì, beh certo, è uno delle radio migliori che per la 27, non ci sono dubbi. Diciamo che del tipo base a me è quello che mi piace, tutti gli altri apparecchi di base non mi piacciono, al di fuori di quello e l'altro il DAC e basta, ma tutti gli altri poi no, per me sono barragioni. Questo sì è grande, va benissimo e funziona, mi è sempre piaciuto comunque. Ragazzo, bel baracchino, è ti ho solo attaccato, io sono già qua. E io qui, io vabbè già ho questo, questo già bala grande ancora, io Puglia, poi ne ho altri anche, ne ho altre tre baracchini, ma per farò fuori, anzi uno diciamo che me lo devo tenere e uno è già promesso, per cui poi vediamo un po' cosa succede. La tenuta la prende tante, ne avevo 12, ne avevo in tutto, me ne sono disfatto di 9, per cui non è il caso di averne tante, per avere sempre lo stesso modo di parlare, la stessa frequenza, eccetera. Ah, cosa te ne fai? Tanto sempre uno che sto usando. Appunto, sempre uno ne usi, per cui me ne tengo uno, due e poi basta. Non me ne servo di più. Quando non ne avrò nulla, allora lo comprerò un altro. Però al momento cosa me ne posso? Almeno mi sono liberato anche un po' di spazio, perché toccava sempre stare spostando da un posto all'altro, oppure se me ne mettevo davanti nel tavolino sempre a sfoverare, ma me lo faceva, l'ho portato avanti per quasi 50 anni, boh, basta, adiovato, non ne voglio più sapere. Per cui mi tengo questi che ho sufficiente, più che sufficiente per parlare, a voglia. E allora, quando ne hai due tranquillo, così, o uno tranquillo, a fondo, intanto su 10 a parlare. Certo. E del veicolare mi piace anche il 3009, la verità, 3009, il 360 FM mi piace. Quel tipo di apparecchi lì, dai, il 6009 lo stesso, sono tutti della stessa classe. Anzi, a dire la verità, il 3009 ce ne sono, roba di 14 o 15, magari con diverso nome, con diverso logo, però la radio è quella, può essere differente un pochino di figura, però l'interno è sempre quello, sempre il 3009. Era bello, il mio era bello perché io l'avevo fatto venire dall'America. Ah, l'avevi chiesto da fuori, dall'America l'avevi fatto arrivare quello, il 3009. Come mai? Non hai dovuto pagare la dogana? Ti è convenuto a far arrivare da fuori? L'ho pagato 168 euro. Sì, 168 euro. Ah, era bellissimo. Poi l'ho venduto a Gianni. Ma Gianni dopo non me l'ho dato ancora col cielo fan sotto il guscio. Io non ne tocco gli apparecchi, no. Allora ancora il cielo fan sotto il guscio. E poi l'ha venduto lui. E un amico me l'ha chiesto, ma è il cazzo. Infatti, l'ho saputo quel particolare. E poi se l'ha venduto. Vabbè, pazienza, dai. Purtroppo è così, ognuno fa quello che crede, non c'è problema, no, ripeto, ma arrivando dall'America non ti hanno fatto pagare la dogana per quella radio lì? No, è arrivata liscia, non so, ero convinto anch'io di pagare il pagamento, invece è arrivata liscia, 168 euro costava, 168 ce l'ho pagato. Ho pagato 20, 23, 25 euro di spedizione. Ho capito, sì. Ma io pensavo che l'avevi comprato in Italia. Va bene. Ma direttamente tu dall'America o tramite una società, un'azienda dell'Italia? Dell'Italia l'hai preso, tramite un'azienda dell'Italia o direttamente tu hai fatto l'ordine in America? No, io direttamente da internet. Io la internet l'avevo preso. Ho capito, sì. È buono così. Buono, pensavo che costasse anche di più. Perché io, vedendo internet, quello di solito ho visto intorno ai 200, 220, 210, sempre su quel prezzo lì. Non lo sapevo. Va bene, buono a sapersi, dai. Che bello che era. Era bello, era veramente bello. È bello, come tutti gli altri, però sicuramente spara fatto di più. Perché mi sono accorto che in America, infatti, non ti controllano la pizza. Beh, lì sicuramente possono utilizzare più potenza, non ci sono dubbi. Lo so, vabbè, noi abbiamo delle regole, purtroppo è così, bisogna stare alle regole, mentre invece loro hanno più libertà, almeno per quanto riguarda la radio, eccetera. Va bene, meglio così. Bene. Allora, pensavo che dall'America direttamente non te lo mandassero senza un buono, diciamo, un bel po' di soldi di dazio, dai, o come lo vuoi chiamare, di dogana, cosa del genere. Invece mi stai dicendo che quanto c'è da scritto l'hai pagato. Va bene, va. Perché 168 più 20, eccetera, praticamente ti è venuto 190 euro più o meno, dai, in tutto. Sì, 200 euro, vai, fai 200 euro in tutto. Ora non mi ricordo più o meno il prezzo. Io oggi mi avevo dato anche con lo scontrino. Ok, ho capito, sì. No, ma Gianni era contentissimo. Di quel baracchino Gianni era contentissimo, usciva che è una meraviglia. Poi mi avevo mandato anche il video, insomma è un bel baracchino veramente, lo so. A me mi è sempre piaciuto. Come veicolare mi è sempre piaciuto quello. E come stazione base mi è piaciuto solo Galaxy Saturnecco. E il DAC, però il DAC è impossibile poterlo comprare anche perché costa 400 euro. Perché si trova, voglia se si trova. Però costa 400 euro. E io non, certamente non spendo 400 euro. Con 400 euro mi compro un K. Certo, io ce lo trovo fino a 250 euro. Senza microfono ne ho io i Galaxy. Il Galaxy ne ho io, 250 euro. Nuovo. L'eco non funziona, l'eco, ma quello non l'abbiamo mai usato, evidentemente si era scaricato qualcosa dentro. Niente, funziona bene, poi 300 euro di orologio, le mini più 4 l'ho comprato dopo una settimana fa. Ok, ho capito. Vabbè, io ho il K e usare un baracchino significa tornare indietro per me, visto considerato che ho il K. Per cui finché va bene questo, poi se quando non andrà più bene allora me lo compro un superstar oppure qualcos'altro che trovo, nuovo naturalmente, perché solo così si può andare avanti. È inutile stare a comprare roba usata, non si sa mai che fine fanno. Va bene così, dai, riprendi. No, io questo qua mi sono trovato bene, cioè nuovo, perfetto. Non è anche un graffio, è perfetto, nuovo, come se stesse uscendo dalle luci. Si faceva a casa, non lo usava più da anni. Faccio detto, se non lo usi più anni, insomma dobbiamo accenderlo. L'ha acceso e funziona comunque. E beh, funziona, si ricerca. Ma questo è più quello, fra i 150 e i 200 euro, il prezzo è quello, dipende da chi ce l'ha e da come lo vogliono vendere. Io negli anni passati l'avevo fatto arrivare due nuovi, uno per un amico e uno per un altro amico, allora costavano 749.000 lire, allora c'era la lira, sto parlando di parecchi anni fa. Saranno negli anni 90 più o meno, dai. Per cui ti puoi immaginare, costava così, da nuovo. Le avevo fatto arrivare due, proprio per questi amici, dai. Uno è Giovanni Ciclone, buonanima, che è morto, e l'altro era anche Gio Maria e Ciccia. E ce l'hanno tenuto per tanti anni, e ha sempre funzionato molto bene. Sì, sono ottimi apparati, sono veramente ottimi apparati, a me piace, voglio provare anche altro. Certo, con quella cifra che hai pagato magari aggiungevi qualcosina, ti compravi, che so io, un 140, un 680, un 440, una radio del genere, dai, e sicuramente sarebbe andato meglio. Tu mi dirai, bisogna avere fortuna chiaramente a trovare sempre una radio in condizioni, in buone condizioni, perlomeno che non dia problemi, perlomeno subito, poi se sa col tempo problemi non possono dare qualsiasi apparecchiatura, questo è normale, no? Ma è così, io questo ce l'ho già, insomma, 6 anni e devo dire l'ho riparato solo una volta, ma niente di particolare, anzi addirittura mi hanno fatto un favore perché non mi hanno chiesto nemmeno un centesimo e me l'avrebbero riparato molto bene e sono contento, un amico radioamatore me l'aveva riparato. Ah, tu c'hai il 440, così è? Sì. Io ho il 440 con l'MC60 che sto usando adesso in questo momento. Penso che sia un buon microfono anche, tra l'altro. E sono già roba di 6 anni, una cosa del genere. Non ho capito. Questo sono degli apparati. Io quanto fa sta uscendo adesso? Un po' che va, che sono 10-12 watt in questo momento sono. Aspetta che, perché se parlo non lo vedo bene perché è uscita la lancetta, aspetta che lo guardo da silenzio. Ecco, 12-13 watt più o meno, eh. Ah, ho capito. Ma tu non credo che trovava cosa? Ok. È andato qualcosa lì come segnale? Sì, l'hai abbassato. L'hai abbassato il segnale. Da 9 qualcosina si è tornato indietro a 8. Vabbè, dai, lì fuori vedere cosa bene. Vabbè, no, non mi piace quelli con i passanti. Sì, beh certo. No, ma sono apparecchiature che reggono benissimo, non c'è problema. Non c'è problema. Per cui va bene così. Io sto uscendo, ripeto, con 12-13 watt più o meno. L'indicazione esatta non te la può dare, ma siamo intorno ai 10, ai 12, ai 13 più o meno. E di segnare la cosa, lo smettere di un po' avaro, vedi, quello sì, lo so, quello del segnale è un po' avaro lo smettere. Infatti magari sta arrivando se no 7-8 o di più. Ma sta arrivando sotto al mezzo modulati 8, ma io adesso, no, forse non siamo capiti, io adesso lo sto usando il Galaxy. Stiamo usando il Galaxy, no? Ho capito, stiamo usando il Galaxy. Adesso sei Santiago 8 però. Prima eri 9, adesso sei 8. Sì, perché ho passato il fatto. Ma io adesso lo sto usando il Galaxy. Ah no, allora lo stai usando. L'Uranus. Neanche. Uranus è qua parcheggiato. Sto usando un K. Ah, ho capito, sì. Però ma dai due colpi importanti che voglio sentire lo sacco del microfono. Già si sente lo sacco. Già si sente lo sacco dell'MC60, si sente. Sì, come il mio, lo sento lo sacco, quando muovo una portante che fa lo scatto, lo senti? Sì, sì. Appunto, così è. Il K stai usando, non sapevo che avevi il K. Cos'è il 140, cos'è? Sì, ho preso il 140, il suo contatto. E come non uso io, vabbè, il 440 per me è troppo delicato. Poi magari in seguito proverò anche il 440. Però adesso, bello, mi piace, funziona bene. È bello anche l'estetica. Lo so, certo che è bello, già lo credo, ma io volevo che ti dica, io ho questo, e soprattutto il vantaggio che c'è l'accordatore entro contenuto anche, per cui se ci sono problemi in antenna, accordi e vai alla grande. Io mi trovo bene, la verità. Poi naturalmente ci sono altre radio che vanno bene, però questo per la CB va più che bene, la Puglia, la grande. Sì, ma infatti il 440 va bene, una bella radio. Io sto uscendo da 10 watt. Sì. E ce n'era anche 40, quello lì ce n'era tranquillamente. Basta aumentare il power, ma comunque non è il caso di aumentare, chi te lo fa fare? Non serve a niente aumentare. No, io adesso ancora sta andando bene, però ho deciso che un giorno lo spedisco tramite un amico e lui sa a chi lo dobbiamo mandare e così mi dà una mano Claudio e lo faccio revisionare e continuo a tenere questo fin quando va. Se poi avrà problemi, pazienza, lo mettiamo da parte e ne compro un altro oggi. 440 che ha la contattore antenna, poi ha 100 canali memorizzabili e tutte queste cose qua. No, io qualche volta mi metto ad ascoltare anche le altre frequenze, i 40 metri, gli 80 metri. Anche quando avevo la mantova turbo ascoltavo anche i 160 metri. Invece adesso che ho questa antenna tipo canale pesca, è sorda come antenna, anche se funziona bene, però è sorda, non sento più tutte le frequenze che sentivo prima. Mentre invece per la 27 va benissimo, ma per le altre frequenze è sorda, sento di meno, cioè con segnali bassissimi. Prima invece sentivo anche 9.10, 9.20 e i 40 metri ad esempio. Oggi invece quando arrivano a 4, 5 di segnale è anche troppo, ma dipende sempre dall'antenna che ho io, capito? No, io devo ancora ascoltare perché non so come si fa. Mi hanno spiegato come si un piccato, vabbè, un altro modo di vederlo, quello lì. Beh certo, cambi frequenza, lo sai, quando si è a 7000 ad esempio sei in 40 metri, 7060, 7050, 7065, 7070, così via, andando avanti, no? Questo è, io ad esempio me ne ho memorizzato una settantina di canale 75 per l'esattezza. Io ho i canali della 27 memorizzati e poi ho una buona parte anche dei 40 metri. Poi naturalmente se devo cambiare ancora frequenza schiaccio un tasto e vado magari in 10 metri, in 20 metri e dove voglio andare, ma ripeto, io quando ascolto o in 40 o in 80. La notte ascoltavo prima, come ti ho detto poc'anzi, quando avevo l'altra antenna ascoltavo anche 160 metri e sentivo, mentre invece adesso non sento più io 160, perché l'antenna che ho non è adatta, non è sufficiente per poter ascoltare quella frequenza lì. No, tu hai la game master, vabbè, aspetta, dimmi una cosa, guarda un po' se cambia la modulazione, è cambiata qualcosa la modulazione adesso? No, non mi sembra, assolutamente. Cosa hai fatto? Hai cambiato il valore degli ohm da 50 a 60 a 500? No, c'è scritto un processore, no, adesso ho attivato il processore, è cambiato qualcosa? Ah, ti sento praticamente come prima ti sento, ti dovrei sentire più forte col processore, ti dovrei sentire più forte, e infatti se io lo tolgo, adesso io te lo tolgo per un attimo, ecco adesso io l'ho tolto il processore, adesso mi stai sentendo molto basso, adesso lo rimetto, adesso di nuovo il processore, e cambia, sì, certo che cambia, però il microfono dove l'hai messo, o a quale impedenza l'hai messo, a 50 o a 500? Nel microfono, quella levetta che c'è attaccata al microfono, c'è scritto 50 e 500, prova a mettere a 50. Sì, e qual è? Quella di sopra o di giù? Nel microfono proprio nel microfono, non la base, no, nel microfono c'è un interruttorino che puoi mettere 50 ohm o 500 ohm, se lo metti a 50 ohm va meglio, è più amplificata la voce. 50 ohm? Appunto, io lo uso lì a 50 ohm per la mia timbrica, va bene così, poi può essere che per te vada bene 500, prova 500 a vedere. Beh, non sei uscito. Adesso sto uscendo. Vuoi Sì, adesso sì. Ma il microfono l'hai cambiato da 50 a 500 ohm, l'hai cambiato? Sì, perché adesso lo a 500 ohm. Come sta andando? Sto uscendo? Sì, io non trovo nessuna differenza. Non trovo nessuna differenza. Comunque tieni da 50 ohm, che secondo me va meglio. Ok, lo so a 50 ohm, evidentemente a 500 ohm dovrei usare il processore per cambiare qualcosa. No, non credo che c'entri molto, è solo una questione di timbre, suppongo. suppongo che sia così, a seconda del tipo della voce dell'operatore, capito? Ascolta, facciamo una cosa, proviamo in FM, passa un attimo in FM, lo sai com'è? No, non lo so, ma come funziona, e come si passa in FM, ma c'è il tasto sotto, AM, FM, ma prova, vai. Vabbè, provo, io passo adesso. Ho capito. Allora, già avevo sentito questo discorso. noia, noia. Devo andare a lavorare alle 18. Non ho voglia. Ancora un'ora, ancora, tra un'ora. Sono le 5 e 3 minuti. Insomma. Per cui tra un'ora devi andare di nuovo a fare combattimento di lavoro. E vabbè, sei sempre nello stesso posto, sempre con le navi, no? E allora, e dove vado? Sapete lì è, cioè, insomma, non è difficile uscirne, ma non è neanche facile. È difficilissimo entrare, è anche difficile, diciamo, uscirne. Poi perché devi uscire? Se è un posto ottimo, capita, va bene, lo so, poi si sa, tutti i mestieri sono di sacrificio, perché cosa credi? Il mestiere che ho fatto io non era un mestiere di sacrificio, guarda, quando cominciavo io la mattina entravo alle 8 a lavorare e ritornavo la sera anche alle 9 a casa, di che fai il conto quante ore di combattimento c'era da fare. Naturalmente considerando anche la pausa, le 2 ore di pausa del pranzo, però si sa, tutti i lavori sono sacrificio oggi. Sì. No, ma io non mi lamento, ma sono finito, sono cose che si provano, non è stanco. Ma Eugenio non fa niente Eugenio, è sempre buttato lì al porto. Beh certo, vabbè, ancora sei giovane tu, certamente, non hai certamente la mia età, tu sei giovane, io ormai sono già in pensione già da 3 anni, cioè che non ho in pensione, sono già da 15 anni, però non sto più lavorando da 3 anni fa, per cui va bene così. Ho lavorato fino a 3 anni fa e ogni tanto qualche cosa me la invento, non ti credi che non me la invento. Anche in questi giorni mi sono fatto una porta per casa, mi sono fatto per la mansarda, se puoi immaginare, perché ho fatto una chiusura e dunque ci è voluta la porta e allora me la sono fatta. Ho sempre tutta l'attrezzatura io, tutta l'attrezzatura artigianale della falegnameria, macchine comprese. Perciò l'unica cosa che non ho più è la sega a nastro, quella l'avevo regalata, perché quando avevo chiuso mi serviva lo spazio, perché dal magazzino l'ho trasformato in un ufficio per mia figlia, capito? Però all'interno c'è sempre tutto, ho tutti i macchinari, ho tutta la corrente elettrica, tutto. Dunque posso, volendo, farmi i lavori che voglio per casa. Fatto bene a non dare niente, perché sono cose che possono sempre servire. Infatti l'ultimo lavoro che ho fatto per i clienti, sai qual è? Proprio per Porto Torres. Avevo fatto delle porte per Sandro, ma risale già 3 anni fa, una cosa del genere, forse anche 3 anni e mezzo, all'incirca una cosa così. Insomma, proprio l'ultimo lavoro che ho fatto per i clienti era quello che ho fatto per Sandro. Poi chiuso totalmente, anzi a dire la verità avevo chiuso anche un po' prima, però solo perché me l'aveva chiesto Sandro, gliel'ho voluti fare queste porte, gliel'ho voluti fare e ciccia, ma solo perché era lui, se no non avrei più lavorato, capito? Ma va bene così, dai. Le macchine costano, poi tra l'altro è difficile anche venderle, perché nessuno dei giovani sta imparando col mestiere, sì, che ti puoi immaginare, però prima o poi me ne dovrò disfare, questo è normale. E a voi, se te ne tieni, non fai male. Che stavo dicendo, è questo apparato, l'unico secco che ha questo apparato, lo sai già, che dovrebbero correggere, non so se li fanno ancora, però dovrebbero correggerli. Lo squelcio da M, perché non ce l'ha? Come? Non ha lo squelcio da M? Ma sicuro sì. Guarda che ce l'aveva a vedermi. Forse non l'hai ancora individuato tu, ma mi sembra strano che non abbia lo squelcio da M. Caspita. Poi se ce l'ha lo squelcio è totale, sia per la M che per l'FM. È per tutto, ed è anche per le bande radioamatoriali. Lo squelcio è unico. No, non ce l'ha, c'ha solo, qua c'è funzione FM. Ma no, è così mi sono informato. 140 è così. C'ha una c'è un tastino ATT che funziona la scotch, però si abbassa il segnale, capito? Vabbè, quello sì, quello ti abbatte il segnale di 20 decibel, ti abbatte, certo, quello è un ATT, sì, quello è l'attivatore, questo sì, infatti quando sei in FM è buona norma attenuare, perché la presetta arriva con lo scala e non si sa mai, secondo quel colpo della vicinanza, della stazione vicina che hai, si potrebbe anche danneggiare la presetta, invece è meglio sempre attenuare un po'. 20 decibel, così non arriva mai a fondo scala, capito? Giusto, è vero, mi ha dato un'idea. Perché da me quando modulo su 12 c'è Antonello che dista la mea a poco, diciamo. Mi arriva di brutto a fondo scala. Fai così, l'attenui un po', così non ti può danneggiare la smittere. Perché secondo il colpo che tu hai, secondo la potenza che usa, è un colpo fortissimo, non dovrebbe succedere niente, però non si sa mai, sai, perché il batte a fondo scala e potrebbe anche piegarsi un po' l'ago. No, ma sto facendo oggi, anche ieri, l'ho attenuato. Vabbè, piano piano, vado a conoscerlo. Sì, beh certo, piano piano quando lo hai studiato un po' tutto, a forza di usarlo non c'è problema, certamente sì. E 140 lo sapevi che man mano che scalda si dà sempre più watt, si dà, fino ad arrivare, lo stesso io, forse anche a 60-80 watt, non lo so, boh, non lo so di preciso, ma comunque so che inizialmente è un pochino più basso come watt, poi man mano che scalda raggiunge quella portata e basta. Non sono accorto perché è aumentato da 10 watt, sono passato a 5, a 15, non ho toccato niente. Sì, perché funziona così, il 140 è così, a differenza invece del 440, no, quello no, lo spegni per dire, lo lasci che sono io a 10 watt, quando lo accendi sono sempre 10 watt, oppure se lo metti a 50 watt, 50 watt avrai quando lo riaccendi subito, mentre invece il 140 no, il 140 ha bisogno di scaldare un pochino per raggiungere un po' di potenza, capito, per raggiungere al massimo della potenza. Sì, sì, l'ho fatto, infatti adesso abbasso altro po', perché 15 watt, vabbè, non sono niente, però 15 watt è la portante, cioè la portante schiacciata, la portante bianca, se modulati sono 25. Eh beh, certo, e io che sto usando 12-13 watt, mi arriva a quasi a 100, modulate la freccia oscilla quasi, arriva quasi a 100, sì, che si può immaginare, per cui è così, lo so, vanno bene comunque, sono radio che vanno molto molto bene. Dimmi una cosa, giù, ma io lo devo guardare la scala di su o di giù, quando sto modulando? C'è chi, dove c'è scritto power, PWR, lì sono i watt, poi c'è SVR, lì è le stazionarie, no? Mentre invece l'altro di su è Santiago, dove c'è scritto S è Santiago, no? Sono il segnale che io arrivo per dire, o gli altri arrivano, capito? Tu guarda per i watt che devo guardare, PWR, che si dice power, capito? Quando schiacci la portante vedi dove sta la freccetta in quella scala lì e così sai quante volte stai usando. Ok, adesso sono 15 watt, i modulati sono 2 arrivace a 90, no, 100 non li tocca. È così, infatti, più o meno così, anch'io adesso che sto usando queste batterie più o meno arriva intorno ai 90, una cosa del genere, dai. poi dipende anche dalla timbrica, cioè dalla volume della voce che gli dai, perché se grido così, ecco, vedi come ho fatto adesso, supera addirittura il 100, però non c'è bisogno di gridare, io intanto sono distante dal microfono, abbastanza, per cui ho praticamente quasi tutto il braccio e parlo normalmente sotto voce senza bisogno di gridare, non è il caso di gridare con questi microfoni, capito? Ma io ho la voce abbastanza bassa, ho la voce abbastanza bassa e cuffa, però vabbè, anch'io diciamo che un braccio lontano il microfono, non è vicinissimo, ce l'ho un braccio lontano, dai, a 50 centimetri. Sì, perché hanno una sensibilità fenomenale, questo tipo di microfono, sono dei microfoni eccezionali, dopotutto un microfono nuovo di questi costa roba di 170-180 euro, non è uno scherzo. Anzi, c'è qualcuno che se lo sta anche vendendo in seconda mano, ho letto proprio in questi giorni al computer, addirittura c'è gente che lo sta vendendo anche oltre 300 euro, un MC60, di seconda mano, ma cosa la parte? Allora, io l'ho preso in seconda mano, ma guarda, è un affarone, non mi ha... sembra che stia uscendo da negozio, nuovissimo, proprio nuovissimo, tutte le scritte nuove, la placca nuova, è allucinante, 80 euro. Sì, infatti è un prezzo normalissimo, intorno massimo, ma esagerando si può pagare 100 euro di seconda mano, ma è così, anche il mio è nuovo, sempre quello. Poi io mi avevo anche fatto uno spettrone e avevo adattato anche l'MB+4 che funziona benissimo, alla grande, anche con l'MB+4 funziona bene alla grande su questa radio qua. Mi sono fatto uno spettrone, mi sono fatto, si sa, l'MB+4 è a 4 puli, mentre invece questo è a 8 puli, per cui bisogna fare molta attenzione se uno si mette a fare l'applicazione del microfono in questa radio, perché c'è la corrente nella presa dove si attacca il microfono, c'è la corrente di 8 volt mi sembra, per cui bisogna fare molta attenzione, se no ti frega la radio. Sì, lo so. Ma io ho l'adattatore che fa, anzi fattore come la prenderlo, ho l'adattatore al microfono, nonostante ci metto lo sciuro, però lo sciuro è quello che usiamo al karaoke, quello per cantare, che è allucinante, quello costa 130 euro, mi fisso il microfono. Ho capito, se ho io un microfono da 600 euro per cantare, si può immaginare, e ho, invece ne ho 4-5. Naturalmente non li uso per il baracchino, no. Sono conservati dentro la scatola, servono per cantare quelle, ma non è che canto io, io sono questo lato, per cui va bene così. Sì, stasera ho proprio uscire, qua, sotto in questo qua. Sotto non sta buonato, c'è proprio cioè l'aggancio suo proprio. Si attacca al filo, c'è proprio la modifica. Sì, beh certo, no, io me lo sono fatto con uno spettone, avevo comprato un pezzo di cavetto con otto fili, con otto poli, però poi ne ho utilizzato solamente quattro per poter fare l'adattamento dell'MB+4 e ci sono riuscito subito alla grande, non c'è problema, basta fare un po' di attenzione, evitare dove c'è la tensione, perché ripeto, se trovi se fa un cortocircuito nel pin dove c'è la tensione, puoi bruciare la radio. Lo so, ma io già non so di quello che si fa toccare a fare, no, non mi piace. Ho contato questo apparato, lui è qua, fermo, nella sua... c'ho l'incastro giusto nella scrivania, e lascio lì il microfono che suona bene, sono troppo unica queste cose. Certo, uno se non è capace devi lasciarlo fare a chi lo sa fare, no? Non è che lavorare così, a fare dei lavori senza sapere quello che fai. Io bene o male qualcosina la so fare, non molto, però diciamo che un pochino almeno una piccola infarinatura dell'elettronica ce l'ho, ma solo perché l'ho fatto da sempre, per cui va bene così. E allora, però quando una cosa non la so, non mi azzardo, la faccio fare a chi ne sa più di me, ci mancherebbe altro. Sì, ma anche una cosa la so fare, ho studiato il modello soccorso. Io sono montatore di sparatori TV, però poi ho intrapreso questa carriera. Va bene, vai. Però io devo lasciare che poi ci vuole mezzo devo scappare al lavoro, che noi dobbiamo essere sempre mezz'ora più laggiù. Dai, ci sentiamo. Ciao, grazie al consiglio, a stasera se coincide. Ciao. Ok, ciao Eugenio. Grazie a te per questo. Ci sentiamo, è stato un piacere dialogare con te. Ciao Eugenio, al prossimo, buon lavoro, ciao. Grazie Giugiù, ci sentiamo, ciao. Canale 10, attenzione 10.